Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te at the drive. Buonasera, benvenuti a Now Boarding Radio. È questa la 20ª volta in questa stagione 2011-2012 che sentite questa sigla e quindi dovreste ormai sapere che siamo nel programma che vi porta all'estero e vi racconta la storia di un connazionale trasferitosi lì. Benvenuti da Francesco e David. Ciao David. Ormai comincio a sentirmi a casa. Ormai sei sempre qui. L'importante è farsi amico il microfono. Poi. Straordinari per te, eh? Veramente. Quando ci sono le puntate extra europee, intercontinentali, noi chiamiamo David e lui risponde. Ed eccomi qui. Tra l'altro tieniti libero perché in questa seconda parte di stagione ce ne saranno un po' di extra europee da fare. Quindi mi devo dar da fare. Sì, benissimo. Tieniti libero, noi ti chiameremo. Quindi lanciamo la prima traccia cercando di capire dove siamo a questa puntata, no? Ma sì, dai, lanciamolo. Quindi, degli Arcade Fire, Ready to Start. Yeah. Bentornati su Nowboarding, di nuovo in onda. E potrebbe essere scontato anche meno, ma oggi ci troviamo dove? In Canada, precisamente a Vancouver. Ecco, incontriamo la nostra ospite. Ciao Michela. Ciao. Come va? Ciao, tutto bene, grazie. Benissimo. Benvenuta a Nowboarding. Vogliamo sottoporla subito al terzo grado? Al terzo grado. Michela, sai cos'è il terzo grado? Sì, sì, sì. Ah, ok, quindi è una Sono nostra... pronta. È pronta, benissimo, dai. Allora partiamo. Età? 23. Da quanto tempo sei lì a Vancouver? Da settembre 2011, quindi qualche mese. Cos'è che fai a Vancouver? Sono arrivata qua per fare un tirocinio, uno stage di 3 mesi all'Istituto Italiano di Cultura. E poi mi sono fermata di più perché avevo il Working Holiday Visa, che è un visto che ti permette di rimanere in Canada e lavorare per 6 mesi. E cosa ti ha spinto a lasciare l'Italia? Cosa mi ha spinto? In realtà è stato proprio il tirocinio. Io ho fatto la domanda tramite l'università, si chiama MyCrui. È un programma ministeriale che ti dà appunto la possibilità di fare 3 mesi di tirocinio o in Italia, in una delle sedi del Ministero degli Affari Esteri, oppure all'estero proprio. Poi te lo spieghi meglio. Come mai hai scelto Vancouver? Ho sempre voluto venire in Canada e quindi ho scelto le mete... Puoi selezionare 2 opzioni e ho scelto le mete canadesi come opzioni. La prima era Vancouver e la seconda era Ottawa. E sono stata selezionata per Vancouver. Ah, ok, perché ci si chiedeva, Vancouver sei a un passo degli Stati Uniti, come mai Canada e non Stati Uniti? Proprio perché è la tua passione, no? Perché mi è sempre piaciuto il Canada, ho sempre avuto la passione per il Canada, fin da quando ero piccola. Non so esattamente spiegare un perché, mi ha sempre attratto. Boscaioli, orsi, queste cose qua. Sì. Ti chiediamo, hai già vissuto all'estero in passato? Sì, ho vissuto in Austria, e perché ho fatto l'Erasmus in Austria. Sono quelli dei paesaggi. E quanto rimarrai ancora a Vancouver? Adesso rimarrò fino a marzo e dopo rientrerò perché mi scade il visto. Ho capito. Quindi sei insomma quasi alla fine, ecco. Sono allora, quasi alla fine, sì. Vabbè, dai. Esame passato. E quindi poi già ci ha accennato cosa fa lì, in qualche modo. E poi glielo chiederemo Andiamo con comodo. Andiamo a approfondire, sì. Intanto noi lanciamo la seconda traccia, sono le Organ con Memorize the City. Buon ascolto. Never Eccoci di nuovo in onda con Michela. Ciao, di nuovo. Di nuovo ciao. Prima hai parlato del tirocinio che hai fatto a Vancouver. Vogliamo chiederti quindi di cosa si tratta, come funziona, come ci si fa a candidare, diciamo, a questo corso. Sì, allora, è un programma del Ministero degli Affari Esteri, come stavo dicendo, e appunto dà la possibilità di fare un periodo di tirocinio di 3 mesi o presso una delle sedi del Ministero degli Affari Esteri a Roma o all'estero. Per candidarsi c'è proprio una domanda di partecipazione che si deve fare online. Mm-hmm. E si fa praticamente attraverso l'università. Ci sono dei requisiti: uno deve avere o la laurea triennale, deve essere già laureato, sì, oppure deve essere in procinto di laurearsi alla specialistica, e ci vuole un voto di laurea minimo, c'è un requisito di età che bisogna soddisfare, oppure per la laurea, per chi sta laureandosi alla specialistica, c'è un numero di crediti minimo che bisogna avere prima di fare la domanda. Ecco, quanto prima bisogna mettersi in moto per fare queste domande prima di partire? Allora, io per partire a settembre ho presentato la domanda, la scadenza era, mi pare, i primi giorni di maggio, quindi ho presentato la domanda a maggio. Quindi 4-5 mesi prima, no? Scusami? 4-5 mesi prima, più o meno. Sì, più o meno sì. Ci sono 3 bandi l'anno. Ah, ok. Sono 3 bandi l'anno, quindi uno parte per le partenze a gennaio, metà gennaio di solito, partenza a metà aprile oppure la partenza a metà settembre. Ho capito. E in qualsiasi settore valgono le lauree oppure uno deve essere laureato o si deve per laureare in certi ambiti, non so, scienze politiche, cose del genere? No, ci sono, dipende dalle offerte, perché ci sono generalmente un 600 offerte di tirocinio, quindi un 600 posti che sono disponibili, e ognuno di questi ha dei requisiti specifici. Per esempio, magari i consolati vogliono un laureato in scienze politiche o comunque uno che magari laureato in economia, che però abbia interesse per la politica, per questo tipo di cose. Mm-hmm. Il mio invece chiedeva una laurea umanistica, che quindi poteva essere lettere, come lingue, come un altro tipo di laurea, sempre comunque nell'ambito umanistico. Nel tuo caso che laurea avevi? Nel mio caso in lingue. Ah, ho capito, quindi era adatta per quello, insomma. Sì. Il nome è Mike Rui, giusto? Mike Rui, sì. Quindi insomma, cercandolo anche su Google, ad esempio, bene, si trova facilmente, sì, ho sì, visto. Sì. Quindi arrivi là e tu sostanzialmente hai già, diciamo, un primo aggancio, quindi il tuo posto di lavoro. Arrivi là e sostanzialmente sì, hai un primo aggancio, nel senso che sai che devi andare all'istituto, cioè all'istituto comunque dove farai il tirocinio, e poi lì però dipende dalle sedi, perché la maggior parte delle sedi non prevede nessun tipo di agevolazione. Quindi io sono arrivata, mi sono dovuta cercare casa da sola, autonomamente. Ho dovuto praticamente fare tutte quelle cose che fai quando vai in un paese estero. Ho capito. Da sola. Zero. Sì, esatto. La differenza appunto è che poi sapevo che dovevo andare, tra virgolette, a lavorare all'istituto. Perfetto. Una cosa che mi chiedevo, parlavi prima del requisito di età. Sì. Quindi si parla di partire prima dei 25 anni. Qual è, diciamo, la fascia? Per la laurea triennale, se si parte come laureati della triennale, sì, dovrebbero essere 25 anni e il voto di laurea minimo dovrebbero essere 105, o perlomeno così era quando ho fatto domanda io. Mm-hmm. In genere avevo visto anche le edizioni precedenti, i requisiti erano sempre quelli, quindi dovrebbe rimanere quello. E per la specialistica invece mi sembra che il requisito di età fosse 28 anni, quindi meno di 28. D'accordo. La soglia fino ai 28, insomma. La soglia, non so se è arrivata lì in Canada la notizia sopra il quale si è sfigati se non si è ancora laureati. Si è etichettati. Sì, sì, è arrivata anche in Canada. Ok, quindi non puoi essere sfigato per fare il tirocinio Mike Rui, ecco. Attenzione. Quindi sei arrivata a Vancouver partendo sì, da zero, hai dovuto sì, cercarti alloggio, e quanto sei messo, ecco, diciamo, a guardarti un torno prima di trovare, diciamo, una sede? Ma Vancouver ha un vantaggio, nel senso che essendoci sempre tantissima gente che viene, che va, tra studenti di lingua, tra persone che vengono con il working holiday visa, eccetera, c'è sempre un sacco di ricambio negli alloggi, quindi è facile trovarli. Poi ovviamente dipende sempre da cosa uno cerca. Io sono stata fortunata perché l'ho trovato 2 giorni e mezzo dopo essere arrivata. Cavolo. Sì. No, no, vai, stavi finendo? No, niente, ci ho messo veramente poco. In genere Ecco, quello che si fa è controllare su internet. C'è Craigslist, che è praticamente il Kijiji versione canadese e statunitense, e la maggior parte degli annunci sono lì. Bisogna stare un attimo attenti, perché comunque ci sono sempre persone, anche qui ci possono essere delle truffe. Vabbè. Però diciamo che se sei sul luogo non è un gran problema, perché poi vai a vedere l'appartamento e... come dovunque. Esatto. Bisogna stare attenti. Quindi il tuo tirocinio non prevedeva un alloggio. Ce ne sono magari altri che forniscono anche alloggio, ad esempio queste cose qui, che tu sappia? Sempre del MyCrew, intendi? Sì. Non lo so, so che alcune sedi avevano tipo convenzioni o comunque aiutavano lo stagista a trovare l'alloggio, però penso che la maggior... cioè praticamente no. Ho capito. E quindi, se te lo possiamo chiedere, quindi praticamente tu ricevi uno stipendio per questo tirocinio, un rimborso spese, qualcosa? Purtroppo no. Ah, quindi è totalmente a carico del tirocinante? Sì, esatto. Ho capito. Esatto. Ma non esiste, diciamo, proprio... che io l'ho fatto... l'ho fatto perché l'ho presa come un'esperienza, comunque, per andare all'estero, per venire in Canada, come l'occasione per venire in Canada, che è una cosa che ho sempre voluto fare. Certo. Però oggettivamente è abbastanza costoso. Come magari qualcuno, insomma, uno mette in conto di spendere qualcosa in più di, per mantenersi nel primo periodo, almeno, no? Sì. Ma mettiamo che, cioè, può essere terminato prima del tempo questo tirocinio? Terminato prima del tempo? Sinceramente non lo so, nel senso che loro ti dicono che puoi terminarlo magari 2 settimane prima del tempo. Non so cosa succede se uno voglia terminarlo prima. Okay, teoricamente penso di sì, che tu possa terminarlo prima se hai dei motivi, non vuoi più stare, non lo so. No, perché mi chiedevo, magari uno nel frattempo trova un lavoro lì e dice, beh, preferisco lavorare e quindi guadagnare piuttosto che terminarlo, non lo so. Dipende da cioè, trova un lavoro qui. Trovarlo in Canada è abbastanza complicato, nel senso che ci vuole il visto per lavorare in Canada. Sì. Forse nelle altre sedi, in Europa soprattutto, è un po' più semplice, dici? Sì, quello è più semplice perché non ti servono visti, non ti serve niente. Cioè, sei europeo, lavori dove vuoi. Quindi dimmi, scusa. No, niente, tranquilla. Quindi diciamo che questo tirocinio MyCrew può essere una buona occasione proprio per trasferirsi all'estero senza fare un salto totalmente nel vuoto, nel senso che male che vada sai che no, c'hai questi mesi già occupati in cui hai un'attività, no? Sì, sai comunque che è un tipo di attività che non è retribuita. Sì, ok. Quindi insomma è una garanzia fino a un certo punto. Sì, più che una garanzia è un aggancio. Esatto. Quindi lo consiglieresti, insomma, come esperienza? Ma io lo consiglierei come esperienza a prescindere. Nel senso, anche se uno non si vuole trasferire all'estero, io lo consiglierei come esperienza. Ovviamente ha un certo costo e quindi quello va valutato. Certo. Ascoltami, anche in base a quello che uno poi vuole fare dopo. Chiaro. E mentre scambiavamo qualche mail per accordarci, mi hai detto che eri a... forse lo scorso weekend, comunque tempo fa, ad un concerto da quelle parti. C'erano anche i These Kids Wear Crowns. Che concerto era? Sì, era il concerto dei Simple Plan. E poi c'erano appunto delle band canadesi di apertura, che sono i These Kids Wear Crowns e i Mariana Strange. E poi c'era un'altra band che credo sia statunitense, che si chiama All Time Low. Io in realtà sono andata per i Mariana Strange, se devo essere sincera. E noi invece... E noi invece, grande coerenza, andiamo a sentirci a rovescio i These Kids Wear Crowns, questa Skeletons. A dopo. To go. We keep our heads up and lay low to stay above the water. We're two drops and we know at least we got each other. You're the money, you're funny, you know that I'm your client. place to hide. We can feel our hearts beating. We should let them out. We can feel our hearts beating. Come on, let's let them out. Because we're all just skeletons. Our bones will never break. We know to take things slow. To go. Bentornati su Now Boarding su Radio San Donà sui 102.200. Ecco, abbiamo introdotto l'argomento principale ed ecco arrivare alla seconda fase, nella quale chiediamo a Michela cosa ha fatto dopo il suo corso, dopo il suo tirocinio. Avevi questa carta che ti durava 6 mesi, quindi hai ben pensato dopo 3 mesi, se non erro, correggimi, di cercare lavoro. Sì, esatto. Io ero partita pensando di ritornare dopo 3 mesi, sinceramente. Avevo fatto il working holiday giusto per. Poi invece mi sono trovata veramente bene, mi piaceva un sacco, e allora ho deciso di rimanere altri 3 mesi e di cercare un lavoro per rimanere qua altri 3 mesi. Benissimo. Com'è che hai cercato il lavoro a Vancouver? Allora, innanzitutto ho preparato il curriculum canadese, che è un pochino diverso da quello a cui siamo abituati noi. Intanto, per cominciare, non si mette la data di nascita, e questa è una gran differenza. Non si mettono tutti quei dati, tra virgolette, sensibili che da noi sono sul curriculum, tipo non ti chiederanno se sei sposato, non ti chiederanno questo tipo di cose. Cioè, figli, cose del genere, no? No, soprattutto non nel curriculum. Non metti la data di nascita, non metti se sei maschio o femmina, che a volte penso che per loro sia leggermente problematico, perché ci sono dei... qui è pieno di asiatici, quindi ci sono un sacco di persone che hanno dei nomi che non si capisce di che sesso siano. Esatto. Ma questa esigenza nasce particolare per qualche motivo? Questo è perché innanzitutto credo che sia soprattutto perché sono molto politically correct, quindi per non discriminare niente, nessuno, preferiscono togliere questi dati dal curriculum. Mi sembra giusto, avevo già sentito dire questo. Sì, sì, ed è veramente così, è una cosa, è uno tipo di società che è molto tollerante, anche perché è fatta da immigrati. Cioè, chiaro. Uscire qui vuol dire, uscire qui per strada vuol dire trovarsi di fronte a un sacco di persone che in grande maggior parte sono immigrate qui, non sono nate qui, o comunque anche se sono nate qui, spesso hanno genitori che sono immigrati, se non erano i genitori sono i nonni, quindi comunque è una società nuova. Mm-hmm. E quindi questo si riflette chiaramente anche sul mercato, sul mondo del lavoro, no? Sì. E invece mi sembra contino parecchio in qualche modo le referenze, no? Cioè la possibilità... Sì, quello sì. Praticamente sempre, per quasi qualsiasi tipo di lavoro, richiedono di avere delle referenze, quindi di avere qualcuno che possa, tra virgolette, garantire per te. E effettivamente fanno anche il controllo delle referenze molto spesso. Cioè? Cioè, nel momento in cui tu gli dai il nome della persona, il contatto della persona, io li avevo scritti in fondo al curriculum, per esempio, si mettono in contatto e chiedono come eri tu come persona, come lavoravi, se sei una persona affidabile. E è molto importante soprattutto avere dell'esperienza canadese. Ok. Se per lavorare in Canada. Quindi anche di volontariato, può essere anche di volontariato, non è necessario che sia subito un'esperienza lavorativa, però avere delle esperienze di volontariato è valutato molto positivamente, anche se non sono in Canada, proprio in generale avere l'esperienza di volontariato è positivo. Ho capito. E quindi tu, che in Canada non avevi delle altre esperienze, come ti sei trovata? Sei riuscita a trovare lavoro? Sì, io sì, l'ho trovato. E, ho trovato lavoro in un ristorante e poi ho trovato anche un altro lavoro tramite un'agenzia interinale, la Randstad. Mm-hmm. Che c'è anche qui. Ma a differenza che da noi qui funzionano per quello per cui sarebbero pensate. Cioè fanno un placement temporaneo. Ah, ok. Quindi anche legato al fatto che tu lì puoi rimanere un numero limitato di mesi. Sì, esatto. Ma comunque loro si occupano proprio di avere, di trovare del personale per un periodo di tempo. Non è come da noi che passi per l'agenzia interinale, poi forse dopo 3 mesi ti dicono ma ci sono delle possibilità e invece poi magari non ci sono, o comunque continui con contratti con l'interinale. Qui non funziona così, perlomeno da quello che ho visto io. Qui funziona che l'azienda X ha bisogno di qualcuno per 3 giorni, chiama l'agenzia interinale e sono quei 3 giorni, cioè quello è. Quindi insomma patti chiari già in partenza, non è che tu sei delle finte illusioni o delle cose del genere, no? Da quello che ho visto io sì, è così. Ho capito. Beh, per chi viene a Vancouver e diciamo pensa di stare in un periodo breve, potrebbe essere come un italiano o comunque qualsiasi altro. Nel senso, per inserirsi nel lavoro. Sì. E che tipo di esperienze potrebbe fare? Ci sono moltissime offerte di lavoro nel campo della ristorazione, veramente tantissime. Camerieri, baristi, c'è un grande ricambio perché comunque, come dicevo prima, ci sono tante persone che vengono qui col working holiday visa per un periodo di tempo limitato e quindi trovano un lavoro in quel settore, poi vanno via e quindi ci sono sempre, sempre annunci in questo campo. Se si vuole trovare un altro tipo di lavoro, che ne so, un ufficio, eccetera, diventa un po' più complicato anche perché lì dipende da quanto bene sai l'inglese. Ah, ok. Giustamente. Beh, tra le altre cose abbiamo scoperto che mentre lavoravi sei riuscita a crearti un tuo blog, se non sbaglio. La nostra redazione sì. Scopre tutto. Voi provate a nascondervi, ma noi... eccoci qui che vi becchiamo. Vuoi sì. Magari descriverlo, non so, magari dare il nominativo? Sì, è Autumn in Vancouver ed è l'ho aperto quasi subito quando sono arrivata, l'ho aperto a ottobre. Quindi dall'inizio. Sì, e non so sinceramente perché l'ho aperto. Era più che altro per raccogliere delle impressioni su Vancouver, raccontare qualcosa. Non metto in genere informazioni pratiche, nel senso non scrivo come venire qui o quel tipo di cose, perché ci sono tantissimi altri blog che lo fanno e lo fanno bene. Per cui ho deciso di scrivere semplicemente quello che penso io, quello che faccio io, quel tipo di cose. Un po' un tuo diario, insomma. Sì, più o meno. Invece di questi altri blog, ti viene in mente qualche nome, magari di qualche blog che dà delle dritte, dà dei consigli? Sì, c'è un blog di ragazzi friulani. Probabilmente è Drinking Vancouver Road, in Vancouver. No, mi sembra che si chiami Vancouver Road. Vancouver sì, Road. vancouverroad.blogspot.com. Ok. E loro invece danno anche un sacco di informazioni. Invece il mio è autumninvancouver.wordpress.com. Beh, sì. Abbiamo tra l'uno e l'altro uno può raccogliere qualche informazione utile, insomma, no? Bene, arriviamo al lancio della quarta traccia. Ma sì, dai, andiamo. Questi sono i Destroyer. Hanno qualche particolarità, no? Penso anche soprattutto il video. Sì, interessante il video, no? Praticamente è girato a bordo di una moto che gira per il centro di Vancouver. Benissimo. Un po' 883 come cosa, no? Secondo me sì, si sente anche il rumore della moto sotto. Ci sono arrivati prima gli 883. Allora, dei Destroyer, Savage Night at the Opera. Of value. infinite sense of value. Hey, Mr. Prince of the Purlieu at night, I heard your record, it's alright. Just what I've seen, a horse abandoned midstream, caught your next on a defile, caught your next, hey, that's your style. You'll never guess just where I've been, a life abandoned midstream, portrait etched on a turnstile, to set the loop and then go wild. Rientriamo in studio a Nowboarding Radio e oltre a non essere stati granché originali i Destroyer, nel senso che copiano dagli 883, ci dicevi che non sono neanche gli unici, Michela, a aver girato video o cose del genere a Vancouver, no? Sì, a Vancouver girano un sacco di serie TV, film, un sacco di film americani ambientati in America, in realtà sono girati a Vancouver. Serie TV girate a Vancouver famose, c'è X-File. Ma va? Sì, Fringe, detto. Supernatural, adesso ce n'è una nuova che è The Secret Circle, che girano qua tra Delta, North Vancouver, che sono tutte zone vicinissime a Vancouver, fanno parte della grande Vancouver, diciamo. Pensa a te, qualche altra curiosità, qualcosa che ci dici del Canada, di Vancouver, che ti viene in mente? Di Vancouver, Vancouver è sempre ai primi posti nelle classifiche delle città più vivibili del mondo. Sì, è vero, abbiamo visto questa cosa. Questo è vero. Sì, e è veramente così, nel senso che è una città in cui è facile vivere, secondo me. Non c'è particolarmente traffico, soprattutto per noi che siamo abituati all'Italia, magari città come Milano o Roma. E qui non è assolutamente così. In città c'è un parco che è grandissimo, che è Stanley Park, e è, se non erro, è persino più grande di Central Park. Non erri, perché noi ci documentiamo ed è così, ecco. È più grande. Ecco, l'alta qualità della vita esiste dappertutto, oppure ci sono delle zone più disagiate? Come in tutte le città ci sono delle zone un po' tanto, meno belle, diciamo. Vivibili, ok. Meno vivibili, decisamente meno vivibili. E qui a Vancouver è la zona di East Hastings Street, in cui si concentrano i senza tetto. Allora, Vancouver ha un clima rispetto alle altre parti del Canada che è molto molto mite. Qua non va mai sotto zero come nelle altre parti del Canada, dove fa meno 30 o meno 20. Qui rimane praticamente sempre sopra lo zero, o comunque intorno allo zero. Perciò i senza tetto ovviamente si concentrano qua, perché qui non muori di freddo. Giustamente. E appunto questa è la zona in cui è pieno, cioè, passare con l'autobus per East Hastings è abbastanza, soprattutto la prima volta, è abbastanza sconvolgente, diciamo, perché ti trovi queste maree di homeless al bordo della strada con i carrelli, perché poi usano i carrelli per tenere tutte le loro cose. Drogati, insomma non è una gran zona, ecco. Quindi magari vedendo il resto della città il resto della città non te l'aspetti. Esatto, ci resti ancora maggiormente male, no? Sì, perché comunque non è una cosa di cui in genere si parla. Cioè, cercare i testings, anche cercare fotografie su Google, perché le avevo cercate, non c'è proprio questa gran documentazione. Scrivi Vancouver, trovi milioni di informazioni, sui testings già se ne parla molto molto meno. Pensa a te. E hanno fatto le Olimpiadi invernali nel 2010, però non è cambiato niente. Proprio una zona lasciata a se stessa. Buia. Sì. Senti, un'altra cosa, Channel 4 che cavolo trasmette? Durante le vacanze natalizie c'era un fantastico programma, veramente, veramente divertente e soprattutto di intrattenimento, devo dire. Praticamente era l'immagine di un caminetto fissa. Cioè tu vedevi il caminetto 24 ore su 24, la legna che scoppietta, ogni tanto c'era una mano misteriosa che andava a muovere la legna, aggiungeva un ciocco di legna, e tu per tutta la durata delle feste di Natale potevi tenere il tuo fantastico caminetto. È giusto per sciogliere i più duri, no? Tenerli al caldo. Beh, meglio della nostra Rete 4 comunque. Cioè, un'immagine di un fuoco sarebbe comunque meglio. Decisamente. Tra il fuoco e Walker Texas Ranger, io non so scegliere. Non diciamo altro. Sì, infatti, infatti. Bene, dai, abbiamo avuto un po' un'idea. Una panoramica. Sì. Riassumiamo un po' di contatti nati diversi, Michela, di contatti utili. Ci dicevi anche di un gruppo di Veneti nella British Columbia, giusto? Sì, c'è un gruppo di ragazzi, di giovani, diciamo, Veneti. C'è il gruppo su Facebook che si chiama Gioventù Veneta British Columbia. Segnatevi. Mm-hmm. Poi c'era Vancouver Roads, giusto? Vancouver Road, che è il blog di questi ragazzi friulani che si sono trasferiti l'anno scorso, credo intorno a maggio o giugno, e stanno cercando di rimanere a Vancouver. Quindi il loro è un blog che è veramente pieno di informazioni. Ho capito. Anche per come fare per venire qui col working holiday, eccetera, eccetera. C'è il mio blog, che invece non dà questo tipo di informazioni, però racconta Vancouver. Mm-hmm. E invece per qualche info sul tirocinio, Mike Rui? Generalmente le prime info le trovi sul sito dell'università, quindi okay. Della tua università. Quasi praticamente tutte hanno la sezione dedicata al Mike Rui, altrimenti c'è il sito del Ministero degli Affari Esteri. C'è proprio una sezione tirocini al MAE, e sotto a tirocini al MAE c'è anche Mike Rui. E poi c'è il sito della Fondazione Crui, basta scrivere Fondazione Crui su Google e anche lì si trovano informazioni dettagliate sul Mike Rui. Perfetto, perfetto. Diamo, ormai che ci siamo, anche i nostri di contatti. La trasmissione va in onda in FM sui 102.200 o in tutto il mondo, visto la nostra apertura immensa a livello internazionale, su www.radiosandona.it. I podcast si trovano, oltre che nel sito, sul nostro blog nowboardingradio.wordpress.com. La nostra mail info, me la sono persa, non c'entra niente, info è nowboardingradio@gmail.com. E su Facebook siamo Nowboarding Radio. Io ricordo anche che tra le varie cose che abbiamo svelato, una tua intervista si trova sul sito vogliovivereCosi.com, giusto? Sì. Quindi giusto. Magari nel caso sia sfuggito qualcosa lo troviamo anche là. Ecco, siamo purtroppo alla conclusione e ringraziamo Michela della sua esperienza, della sua testimonianza. Grazie a voi. Stacci bene, buon rientro da queste parti. Ricordiamo. Sì. Purtroppo. Ma dai, non essere triste. Ricordatevi l'appuntamento mercoledì alle ore 9, prossimo mercoledì. E ora lanciamo l'ultima traccia di Michael Bublé, Home. Home. Ne abbiamo già lanciata una in passato, molto limonatoria come canzone, anche questa non scherza, no? Ci sentiamo il prossimo mercoledì. Ciao Michela, ciao David, ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold. And you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are, I wanna come home. else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me, that this was not your dream, but you always believed in me. Another winter day has come and gone away in either Paris or Rome, and I wanna go home. Let me go home. And I'm surrounded by a million people. I still feel alone. Let me go home. Oh, I miss you. Go home. Let me go home. It'll all be alright. I'll be home tonight. I'm coming back home.